20. Quando Abel corrispose a Valency il primo mese di paga, cosa che fece prontamente con banconote che odoravano di tabacco e di whisky, Valency si recò a Deerwood e spese fino all'ultimo centesimo. Ai saldi acquistò un grazioso vestito verde di crêpe de Chine con una ghirlanda di boccioli color cremisi, un paio di calze di seta da abbinare all'abito e un cappellino verde increspato con una rosa cremisi. Comprò addirittura una piccola vestaglia assurdamente piena di pizzi e merletti. Superò per 2 volte la dimora di Elm Street. Valency non pensava mai a quella dimora come alla sua casa, ma non vide nessuno. Sicuramente la madre stava trascorrendo quella splendida serata di giugno nella propria stanza e faceva un solitario. E barava. Valency sapeva che Mrs. Frederick barava sempre, non perdeva mai una partita. La maggior parte della gente che incontrò la guardò con serietà e la superò con un freddo cenno del capo. Nessuno si fermò per parlarle. Quando tornò a casa, Valency indossò il vestito verde, poi se lo tolse di nuovo. Si sentiva così miserabilmente nuda, con quello scollo profondo e le maniche corte. Inoltre, quella ghirlanda cremisi attorno ai fianchi le sembrava assolutamente indecente. Lo appese nell'armadio con la sgradevole sensazione di aver sprecato i propri soldi. Non avrebbe mai avuto il coraggio di indossare quell'abito. L'asserzione di John Foster sulla paura non aveva alcuna possibilità di farle cambiare opinione a riguardo. In questo genere di cose l'abitudine e la tradizione erano ancora preponderanti. Tuttavia sospirò mentre scendeva da basso per incontrare Barney Snaith con il vecchio abito di seta color tabacco. Quel capo verde le si addiceva alla perfezione, il suo sguardo pudico le aveva svelato non poco, gli occhi le erano apparsi come degli strani gioielli marroni al di sopra dell'abito e la ghirlanda aveva conferito un aspetto totalmente diverso alla sua piatta figura. Desiderò di non averlo tolto, ma c'erano alcune cose che John Foster non sapeva. Ogni domenica sera Valency andava alla chiesetta dei liberi metodisti in una valle che si trovava proprio sul limitare della landa desolata, un fragile minuto edificio grigio tra i pini, con poche tombe infossate e delle lapidi ricoperte di muschio all'interno del piccolo quadrato retrostante, circondato da una staccionata e sommerso dalle erbacce. Le piaceva il pastore che celebrava nella landa desolata. Era una persona talmente semplice e sincera. Un vecchio signore che viveva a Port Lawrence e che arrivava al lago su una minuscola barchetta a motore per offrire un servizio gratuito alle persone delle piccole fattorie in pietra che si trovavano dietro alle colline e che altrimenti non avrebbero mai udito alcun messaggio evangelico. Le piacevano la celebrazione semplice, il fervore dei canti, le piaceva sedere di fianco alla finestra aperta e guardare fuori nelle foreste di pini. La congregazione era sempre piccola, i liberi metodisti erano pochi, poveri e di solito analfabeti, ma Valency amava la domenica sera. Per la prima volta in vita sua le piaceva andare in chiesa. A Deerwood corse voce che fosse diventata una libera metodista, cosa che costrinse a letto Mrs. Frederick per un giorno intero. Ma Valency non era diventata assolutamente niente. Andava in chiesa perché le piaceva e perché, per qualche inspiegabile motivo, le faceva bene. Il vecchio Mr. Towers credeva fermamente in ciò che predicava e questo, in qualche modo, faceva un'enorme differenza. Per quanto strano, Roaring Abel, proprio come avrebbe fatto Mrs. Frederick, disapprovava fortemente che lei andasse alla chiesa sulla collina. Non poteva tollerare i liberi metodisti. Lui era un presbiteriano, ma Valency continuò comunque ad andarvi. Avremo presto notizie ben peggiori su di lei, predisse cupamente lo zio Benjamin. E così fu. Valency non sarebbe riuscita a spiegare nemmeno a se stessa perché desiderasse tanto andare a quella festa. Era un ballo che si sarebbe tenuto nella landa desolata ai Chidley Corners, e i balli ai Chidley Corners non erano, come regola, il tipo di assemblee dove si potessero incontrare signorine ben educate. Valency era venuta a sapere del ballo perché Roaring Abel era stato designato come uno dei violoncellisti. Ciò nonostante, l'idea di andarci non le era mai passata per la mente finché non fu proprio Roaring Abel a proporlo durante una cena. Tu vieni al ballo con me, ordinò. Ti farà bene. Colorati un po' le guance, sembri sfinita. Ti serve qualcosa che ti ravvivi. Valency Si trovò ad un tratto a desiderare di andarvi. Non sapeva assolutamente che tipo di balli si tenessero ai Chidley Corners. La sua idea sui balli era stata modellata sui sani eventi che si organizzavano a Deerwood e Port Lawrence sotto quel nome. Ovviamente sapeva che la festa dei Corners non sarebbe stata esattamente come quelli, molto più informale, naturalmente, ma per questo anche molto più interessante. Perché non avrebbe dovuto andarci? Sì, sembrava in buono stato di salute quella settimana, addirittura migliorata. Non le sarebbe assolutamente dispiaciuto restare da sola. Insisté affinché Valency vi andasse se lo desiderava, e Valency voleva andarci con tutto il cuore. Salì in camera per vestirsi. La colse un impeto di rabbia nei confronti del vestito di seta color tabacco. Indossare quella roba a una festa, mai! Tirò fuori dalla gruccia l'abito di crepe verde e lo indossò con impeto. Era sciocco sentirsi così, così nuda, soltanto perché aveva il collo e le braccia scoperte. Era semplicemente la vecchia zitella in lei a emergere. Non le avrebbe permesso di condizionarla. Indossò l'abito e le scarpette da ballo. Era la prima volta che metteva un vestito grazioso, da quando aveva indossato dei capi di organza nei primi anni dell'adolescenza. E nessuno di quelli l'aveva mai fatta apparire così. Se soltanto avesse avuto una collana o qualcosa del genere, allora non si sarebbe sentita così nuda. Corse giù in giardino, là c'era del trifoglio, dei grandi steli cremisi che crescevano tra la lunga erba. Valency ne raccolse alcune manciate e li intrecciò in una cordicella. Legate attorno al collo le donarono la gradevole sensazione di una collana. Inoltre erano sorprendentemente adatti. Un altro cerchietto fu sistemato attorno ai capelli, acconciati con quei bassi rigonfiamenti che tanto le si addicevano. L'eccitazione le imporporò lievemente il volto, si infilò il soprabito e sistemò il sinuoso cappellino sulla chioma. «Oh, sei così graziosa e diversa, cara», disse Sissi, «come un grande raggio lunare con un rosso luccichio, se una tal cosa esistesse». Valency si chinò a baciarla. Non mi piace l'idea di lasciarti da sola, Sissi. Oh, io starò bene. Mi sento meglio di quanto non mi sia successo da lungo tempo. Mi dispiace molto vederti sempre qui attaccata a me. Spero ti divertirai. Non sono mai stata a una festa ai Corners, ma molto tempo fa avevo l'abitudine di andare ai balli della Landa Desolata. Ci divertivamo sempre molto. E non devi temere che il papà si ubriachi questa sera. Non beve mai quando deve suonare a una festa. Ma potrebbero circolare degli alcolici. Che cosa farai se si mette male? Oh, nessuno oserebbe molestarmi. Non seriamente, suppongo. Papà lo impedirebbe, ma la situazione potrebbe farsi rumorosa e spiacevole. Non ci farò caso. Vado soltanto in qualità di spettatrice. Non mi aspetto di ballare. Voglio soltanto vedere com'è una festa della Landa Desolata. Non ho mai visto niente ad eccezione della decorosa Deerwood. Sissi rise alquanto dubbiosa. Sapeva ben più di Valency come poteva essere una festa della Landa Desolata nel caso circolassero alcolici. Del resto, però, tutto ciò poteva anche non accadere. Spero ti piacerà, ripeté. Valency si divertì durante il tragitto. Partirono presto, giacché occorrevano 12 miglia per raggiungere i Chidley Corners. E dovevano viaggiare con il vecchio calesse scarcassato di Roaring Able. La strada era impervia e rocciosa come la maggior parte delle vie del Muskoka, ma possedeva tutto il fascino delle foreste del nord. Si snodava tra i bei pini che spiccavano in incantevoli schiere nel tramonto di giugno e l'accompagnavano con il loro fruscio, così come i bizzarri ruscelli verde giada del Muskoka, contornati da pioppi tremuli costantemente scossi da una gioia divina. Persino Roaring Able era un'eccellente compagnia. Conosceva tutte le storie e le leggende della selvaggia e bellissima Landa Desolata e le raccontò a Valency durante il cammino. Valency fu colta da diversi attacchi di risa interiori al pensiero di ciò che lo zio Benjamin e la zia Wellington e gli altri avrebbero provato e pensato e detto se l'avessero vista accompagnare Roaring Able in quel terribile calesse diretta a un ballo ai Chidley Corners. Sulle prime, La festa fu abbastanza quieta e Valency si divertì e fu ben accolta. Ballò addirittura 2 volte con un paio di bei ragazzi della landa desolata che si muovevano assai bene e le dissero che era brava. Captò un altro complimento, non molto delicato forse, ma Valency ne aveva ricevuti così pochi in vita sua da essere molto sensibile al riguardo. Udì 2 dei giovanotti della landa desolata che parlavano di lei nell'oscuro ambiente alle sue spalle. Sai chi sia quella vestita di verde? No, immagino venga da giù, da Port Lawrence, forse. Ha stile. Non è bella, ma interessante, direi. Mai visto occhi del genere. La stanza grande era decorata con ramoscelli di pino e abete ed era illuminata da lanterne cinesi. Il pavimento era cerato e il violoncello di Roaring Able, ronzando sotto il suo abile tocco, produceva della magia. Le ragazze della landa desolata erano graziose e ben vestite. A Valency sembrava il miglior party cui avesse mai assistito. Quando suonarono le 11 cambiò idea. Arrivò un'altra folla di gente inequivocabilmente ubriaca. Il whisky iniziò a circolare liberamente. Ben presto quasi tutti gli uomini furono un po' sbronzi. Quelli nel loggiato e fuori dalla porta iniziarono a ululare. Venite qua! E continuarono imperterriti. La stanza si fece chiassosa e maleodorante, ci furono degli scontri qua e là e cominciarono a circolare parole volgari e canzoni oscene. Le ragazze, rudemente attirate nelle danze, divennero scompigliate e sciatte. Valency, appartata in un angolo, provò repulsione e pentimento. Perché mai era venuta in un posto del genere? La libertà e l'indipendenza erano una buona cosa, ma non si doveva per questo lasciarsi andare alla follia. Oh, avrebbe dovuto sapere come sarebbe stato, avrebbe dovuto sospettarlo dalle caute osservazioni di Sissi. Le faceva male la testa, era disgustata da tutto, ma che cosa poteva fare? Doveva restare fino alla fine. Abel non poteva andarsene prima di allora e non sarebbe stato, con molta probabilità, prima delle 3 o le 4 del mattino. Il nuovo afflusso di ragazzi aveva lasciato le ragazze in grande minoranza e le compagne erano scarse. Valency fu assillata da inviti per andare a ballare, li rifiutò tutti seccamente e alcuni dei suoi rifiuti non furono ben accetti. Ci furono imprecazioni a fior di labbra e sguardi truci. Dall'altro capo della stanza vide un gruppo di stranieri intenti a parlare e a lanciarle occhiate significative. Che cosa stavano complottando? Fu in quel momento che scorse Barney Snaith, che sbirciava da sopra le teste della folla stipata all'entrata. Valency ebbe 2 distinte certezze. La prima era che adesso era abbastanza sicuro, la seconda che era per questo che aveva desiderato venire al ballo. Si era trattato di una speranza talmente assurda che non era riuscita a capirlo prima, ma ora sapeva di essere lì per l'eventualità di trovarvi Barney. Pensava che forse avrebbe dovuto vergognarsi, ma non era così. Dopo la sensazione di sollievo, provò irritazione nei confronti di Barney perché non si era rasato. Oh, sicuramente avrebbe dovuto avere abbastanza rispetto di se stesso per sistemarsi decentemente prima di presenziare un party. Eccolo lì, a capo scoperto, con la barba ispida, i vecchi pantaloni e la maglietta senza pretese, addirittura senza il soprabito. Valency avrebbe potuto scuoterlo per la rabbia, non c'era da meravigliarsi che la gente pensasse male di lui. Ma non era più spaventata. Un individuo appartenente al gruppetto intento a bisbigliare lasciò i compagni e avanzò verso di lei attraverso la sala, passando tra le coppie piroettanti che adesso riempivano scompostamente la stanza. Era un tizio alto, con le spalle larghe, né mal vestito né di brutto aspetto, ma inequivocabilmente ubriaco. Chiese a Valency di ballare. Valency declinò civilmente l'invito e il suo volto divenne livido. La cinse con un braccio e la tirò a sé. Il suo alito caldo e maleodorante di whisky le bruciò la faccia. Qui non sono ammesse arie da nobildonna, ragazza mia. Se non sei troppo preziosa per venire qua, non lo sei neppure per ballare con noi. Io e i miei compagni ti abbiamo osservata. Dovrai fare un giro con ciascuno di noi e dovrai darci un bacio per l'avvio. Valency tentò disperatamente, invano, di liberarsi. La stava trascinando nella calca di ballerini che gridava, calpestava, sbraitava. Un istante dopo L'uomo che la teneva volò barcollante attraverso la stanza per un pugno ben assestato sulla mascella, facendo cadere alcune vorticose coppie. Valency si sentì afferrare per il braccio. «Da questa parte, presto!» disse Barney Snaith. La fece uscire dalla finestra aperta che si trovava dietro di lui, saltò agilmente sul davanzale e le prese la mano. «Veloce! Dobbiamo darcela a gambe, ci inseguiranno!» Valency corse come mai prima di allora, aggrappandosi fermamente alla mano di Barney e chiedendosi perché non cadesse a terra stecchita in quella folle corsa. Supponiamo fosse accaduto. Quale scandalo per i suoi poveri parenti! Oh, per la prima volta Valency provò per loro un po' di dispiacere. Si sentì inoltre felice per essere sfuggita a quell'orribile baccano e per stringere saldamente la mano di Barney. I suoi sentimenti erano così malamente confusi. Inoltre non ne aveva mai provati così tanti in un lasso di tempo talmente breve. Infine raggiunsero un angolo tranquillo nelle foreste di pini. Gli inseguitori avevano preso una diversa direzione e le grida e le urla dietro di loro si fecero sempre più flebili. Valency, ansante e con il cuore che le batteva all'impazzata, collassò sopra il tronco di un pino caduto. «Grazie!» boccheggiò. «Che sciocca è stata venire in un posto del genere!» disse Barney. «Io non sapevo che sarebbe stato così!» protestò Valency. «Avrebbe dovuto saperlo!» Cedley Corners. «Era soltanto un nome per me!» Valency sapeva che Barney non poteva rendersi conto di quanto lei fosse ignorante in merito alle regioni della Landa Desolata. Aveva vissuto per tutta la vita a Deerwood e naturalmente lui supponeva che lei sapesse. Ignorava come fosse stata allevata. Non aveva alcun senso tentare di spiegarglielo. «Quando ho fatto un salto da Abel questa sera, Sissy mi ha detto che lei sarebbe venuta qui e ne sono rimasto sbalordito. E dannatamente spaventato. Sissi mi ha riferito che era preoccupata per lei, ma che aveva deciso di non tentare di dissuaderla per paura che la ritenesse egoista. E così sono venuto quassù invece di andare a Deerwood.» Sotto i tenebrosi pini, Valency sentì un improvviso e delizioso calore scaldarle l'anima e il corpo. Era davvero venuto nella landa desolata per prendersi cura di lei? «Non appena avranno rinunciato a cercarci, ce la squaglieremo. Aggirando la strada per il Muskoka, ho lasciato Lady Jane laggiù. La riporterò a casa, penso ne abbia avuto abbastanza della sua festa.» «Già», disse Valency mitemente. Per la prima metà del tragitto verso casa, nessuno dei due disse una parola. Non avrebbe avuto alcun senso. Lady Jane faceva così tanto baccano che non avrebbero potuto udirsi l'una l'altra. Comunque, Valency non si sentiva incline a conversare. Provava vergogna per tutta quella situazione, vergogna per la follia di essersi recata alla festa, vergogna per essere stata trovata da Barney Snaith in un posto del genere. Da Barney Snaith, ritenuto un avanzo di galera, un infedele, un falsario e un insolvente. A quel pensiero le labbra di Valency si arricciarono nell'oscurità. Continuava, tuttavia, a provare vergogna. Ciò nonostante si stava divertendo, era piena di una strana euforia, mentre rimbalzava su quella strada dissestata accanto a Barney Snaith. I grandi alberi si agitavano attorno a loro, gli alti verbaschi si ergevano lungo la strada in dritte e ordinate schiere simili a plotoni di soldati. Mentre i fari della vettura li superavano, i cardi assumevano l'aspetto di fate ubriache o di elfi alticci. Era la prima volta che saliva su un'auto. Dopotutto le piaceva. Non era affatto spaventata con Barney al volante. L'umore migliorò rapidamente mentre procedevano lungo la strada. Smise di provare vergogna. Sentiva unicamente di far parte di una cometa che sfrecciava gloriosamente nella notte dello spazio. D'un tratto, proprio dove le foreste di pini si diradavano per lasciare il posto alle aride distese di terra, Lady Jane si fece quieta, troppo quieta. Lady Jane decelerò lentamente e si fermò. Barney proruppe in un'atterrita esclamazione, scese dall'auto, dette un'occhiata e tornò indietro porgendo le proprie scuse. «Oh, sono uno stordito idiota! Siamo senza benzina. Oh, sapevo di essere quasi a secco quando sono partito da casa, ma avevo intenzione di fare il pieno a Deerwood, ma poi, nella fretta di arrivare ai Corners, l'ho del tutto dimenticato. E che cosa possiamo fare? Chiese Valency senza scomporsi. Non saprei. Non c'è una stazione di servizio prima di Deerwood, che peraltro dista 9 miglia da qui. E non oso lasciarla qui da sola. Ci sono sempre delle canaglie su questa strada e qualcuno di quei pazzi potrebbe girovagare da queste parti di ritorno dai Corners. Là c'erano ragazzi di Port Lawrence. Per come la vedo io, la miglior cosa è quella di restarsene pazientemente seduti in attesa che qualche auto passi da queste parti e ci presti la benzina sufficiente per arrivare a casa di Abel. Bene, quale sarebbe il problema? Disse Valancy. Potremmo dovercene restare seduti qui per tutta la notte, rispose Barney. Non mi importa, disse Valency. Barney fece una breve risata. Boh, se non importa a lei, figuriamoci a me, non ho alcuna reputazione da salvare. Neppure io, disse tranquillamente Valency. 21. Ci limiteremo a sedere qui, disse Barney, e se ci verrà in mente qualcosa di importante da dire, lo diremo. In caso contrario, resteremo in silenzio. Non si senta costretta a parlare con me. John Foster afferma, citò Valency, se riesci a sedere in silenzio con una persona per una mezz'ora, sentendoti completamente a tuo agio, tu e quella persona potrete essere amici. In caso contrario, non lo sarete mai ed è inutile che sprechiate il vostro tempo nel tentativo di diventarlo. Boh, evidentemente John Foster dice una cosa sensata di tanto in tanto, convenne Barney. Sedettero in silenzio per lungo tempo. Dei coniglietti attraversarono la strada saltellando. Una o due volte un gufo rise deliziato. La strada dinanzi a loro era contornata con lo spettrale pizzo intrecciato degli alberi. Nel lontano sud-ovest il cielo era carico di piccoli cumuli di nubi che aleggiavano nel punto in cui doveva trovarsi l'isola di Barney. Valency era perfettamente felice. Alcune cose si fanno lentamente strada dentro di noi, altre arrivano in un lampo. Valency era stata folgorata. Comprese in quel momento con una certezza quasi assoluta di amare Barney. Appena il giorno prima apparteneva solamente a se stessa e ora apparteneva a quell'uomo. Eppure lui non aveva fatto niente, non aveva detto niente, non l'aveva neppure guardata come si guarda una donna. Ma questo non aveva importanza, né l'aveva che cosa lui fosse o che cosa avesse fatto. Lo amava, senza alcuna riserva. Tutto in lei gli apparteneva. Non aveva alcun desiderio di soffocare o ripudiare il proprio amore. Sembrava appartenergli così totalmente che pensare a qualcosa che non lo riguardasse, qualcosa in cui non fosse lui a predominare, le risultava impossibile. Aveva compreso di amarlo con semplicità e pienezza nel momento in cui si protendeva verso la portiera dell'auto per spiegare che Lady Jane era senza benzina. Aveva guardato in fondo ai suoi occhi, al chiaro di luna, e aveva capito. In quell'infinitesimo lasso di tempo tutto era cambiato. Le vecchie cose erano scomparse e tutto aveva assunto un nuovo aspetto. Lei non era più l'insignificante piccola zitella Valency Sterling. Era una donna piena di amore. E per questo ricca e importante, sufficiente a se stessa. La vita non era più vuota e futile, e la morte non poteva più defraudarla di niente. L'amore aveva estinto il suo ultimo barlume di paura. L'amore! Com'era ardente, straziante, intollerabilmente dolce questa ossessione del corpo, dell'anima e della mente. Bello, vago e puramente spirituale dentro al suo intimo, proprio come la minuscola scintilla blu nel cuore dell'indistruttibile diamante. Nessun sogno era mai stato così. Non era più sola. Apparteneva a una vasta sorellanza. Era una tra le tante donne al mondo che avessero mai amato. Barney non avrebbe mai dovuto saperlo, anche se a lei non sarebbe dispiaciuto. Lei, però, ne era consapevole e questo faceva una tremenda differenza. Anche soltanto amare. Non chiedeva di essere amata, era già abbastanza estatico starsene lì, seduta al suo fianco in silenzio, loro due da soli, sotto il bianco splendore lunare di una notte d'estate, con il vento proveniente dalle foreste di pini che alitava su di loro. Aveva sempre invidiato il vento, era così libero. Soffiava dove capitava, attraverso le colline, sopra i laghi. Che odore e che sibilo aveva! Quale magica avventura! Valency si sentiva come se avesse cambiato la sua anima logora con una nuova e fiammeggiante nel laboratorio degli dèi. Per quanto riuscisse a guardarsi indietro, la vita le appariva piatta, in colore, in sapore. Adesso una parte della sua esistenza era viola, porpora e fragrante, pronta per essere colta. Non importava chi o che cosa potesse esserci nel suo futuro, nessun altro avrebbe mai potuto vivere quell'ora tanto perfetta. Si lasciò completamente avvolgere dall'incanto del momento. «Ha mai desiderato di salire su una mongolfiera?» disse d'un tratto Barney. «No», rispose Valency. «Oh, io sì, spesso. Sogno di veleggiare attraverso le nubi, di vedere le glorie del tramonto, di trascorrere delle ore nel bel mezzo di una spaventosa tempesta con fulmini che giocano tutti intorno a me. Sogno di aleggiare su una nuvola argentata sotto la luna piena. Meraviglioso!» «Lo sembra, in effetti», disse Valency. «Nei miei sogni sono sempre rimasta sulla terra». Gli raccontò del suo castello blu. Era così semplice parlare con Barney. Si aveva la sensazione che comprendesse qualsiasi cosa, persino quello che non si diceva. E poi gli raccontò qualcosa della sua esistenza prima di arrivare da Roaring Able. Voleva che comprendesse perché era andata al ballo della landa desolata. «Vede, non ho mai avuto una vita vera», disse. «Mi sono limitata a respirare, ogni porta mi è stata chiusa in faccia». «Oh, ma lei è ancora giovane», affermò Barney. «Oh, lo so, sì, sono ancora giovane, ma è così diverso dall'essere giovani», disse amaramente Valency. Per un momento fu tentata di spiegare a Barney perché i suoi anni non avessero niente a che fare con il suo futuro, ma non lo fece. Non aveva intenzione di pensare alla morte quella notte. «Sebbene io non sia mai stata veramente giovane», proseguì, «fino a stasera», aggiunse in cuor suo, «non ho mai avuto una vita come le altre ragazze. Lei non potrebbe capire». Beh, sentiva il disperato desiderio che Barney conoscesse il suo lato peggiore. «Non ho neppure provato amore per mia madre. Non è tremendo che io non ami mia madre?» «Piuttosto tremendo, per sua madre», disse Barney asciutto. «Oh, lei non lo sapeva. Dava per scontato che io l'amassi. Inoltre io non ero di alcuna utilità o conforto per nessuno, ero soltanto un vegetale e la cosa mi aveva stancata. È per questo che sono venuto a occuparmi della casa di Mr. Gay e a prendermi cura di Sissy. E suppongo che i suoi parenti abbiano pensato che fosse impazzita». «È così, e lo pensano ancora, letteralmente», disse Valency. «Per loro, tuttavia, è un conforto. Preferiscono pensarmi matta piuttosto che cattiva. Non c'è alternativa. Ma da quando sono da Mr. Gay ho iniziato a vivere. È stata un'esperienza deliziosa. Suppongo che ne soffrirò quando arriverà il momento di andarmene, ma l'avrò comunque avuta». «È vero», disse Barney. «Se uno si guadagna un'esperienza, allora essa gli appartiene. Non importa dunque quale prezzo si debba pagare, l'esperienza di qualcun altro non potrà mai essere tua. Beh, è un buffo vecchio mondo». «Lo ritiene davvero così vecchio?» chiese Valency in tono sognante. «Non mi è mai apparso tale nel mese di giugno. Stanotte sembra così giovane in qualche modo, in quel fremente chiaro di luna, come una giovane e nivea ragazza in attesa». «Il chiaro di luna nella landa desolata è diverso da quello di qualsiasi altro luogo», convenne Barney. «Riesce sempre a farmi sentire puro, in qualche modo, corpo e anima. E naturalmente l'età dell'oro torna sempre a farsi sentire in primavera». Adesso erano le 10 in punto. Un drago di nubi nere ingoiò la luna. L'aria primaverile divenne fredda. Valency iniziò a tremare. Barney si allungò nell'abitacolo di Lady Jane e ne strasse un vecchio soprabito profumato di tabacco. «Lo indossi», ordinò. «Non vuole metterlo lei?» protestò Valency. «No, non voglio che prenda freddo per colpa mia». «Oh, non prenderò freddo. Non mi sono più ammalata da quando sono venuta a stare da Mr. Gay, sebbene io abbia fatto le cose più folli. Ed è buffo, per giunta. Mi ammalavo sempre prima. Mi sento così egoista a prendere il suo soprabito. Ha starnutito 3 volte. A cosa serve terminare la sua esperienza nella landa desolata con un'influenza o una polmonite? Glielo tirò su affinché aderisse alla gola e glielo abbottonò. Valency si sottomise con segreta delizia. Oh, com'era bello avere qualcuno che si prendeva cura di lei a quel modo. Si strinse addosso le falde che odoravano di tabacco e desiderò che la notte durasse per sempre. 10 minuti più tardi, un'auto scese velocemente dalla landa desolata. Barney balzò fuori dalle digiene e iniziò ad agitare la mano. L'auto si fermò di fianco a loro. Valency vide lo zio Wellington e Olive che la guardavano, inorriditi.